Allo les amis, benvenuti e benvenute all'ultima puntata di Extra Extra, l'ultimo extra extra di questa newsletter che vi ha accompagnato nel corso di tutto il Tour de France 2024, una rubrica che è stata anche un po' improvvisata, diciamolo, è stata un'idea così all'ultimo e che, come tutte le cose un po' improvvisate, si è mossa un po' come una pallina da pinball, dicevamo, come la pallina di un flipper, ma ci ha portato fino alla fine di questo tour. Io sono molto molto sollevato, un po' infastidito all'orario a cui mi obbligano a registrare. Quelli di ASO potrebbero anche finirla, di far finire le tappe così tardi, anche perché sono andate a dormire ormai le cicale e a quest'ora arrivano le zanzare, per cui se in questa puntata sentite degli spack, sono io che mi tiro schiaffoni per ammazzare le zanzare di questa estate 2024, che sono a livello Pogacar, non so se anche dalle vostre parti. Sono sollevato perché la fine del Tour de France un po' segna in un qualche modo l'inizio delle vacanze, almeno per quanto mi riguarda è un periodo di respiro fondamentale. Io per varie ragioni non seguo la Vuelta, se non guardare i risultati. Questo è il momento in cui riprendo aria per poi godermi le classiche autunnali, i mondiali e via con la stagione di ciclocross e di pista. Insomma, il ciclismo non si ferma mai. Io non sono convintissimo che questa cosa sia un bene, ma non è questo il tema di questa puntata, che invece è una puntata di festa. Questo è il sollievo c'è, ma è un sollievo godurioso, perché è stato un tour che ha avuto sì dei difetti, abbiamo parlato tanto dei problemi delle fughe, di un copione forse limitato negli scenari di sviluppo delle tappe, ma è stato quello che si potrebbe definire un tour per sempre. Una corsa magnifica, forse la più bella dell'ultimo decennio e oltre, per quanto riguarda il Tour de France, che già veniva da altre edizioni molto fortunate, non a questo livello, ma insomma, devo dire che il Tour de France dell'anno scorso, quello del 2021, forse il 22 un po' meno, insomma, adesso non stiamo qui a fare la ricostruzione, però insomma veniva da annate che avevano rimesso il Tour de France al centro, dopo un'epoca che tutti ricordiamo come caratterizzata dalla noia, dalla tattica, e invece questo tour risplende. Splende come il sole, splende come il suo campione. Questo Tour de France è la sublimazione di un corridore straordinario, è il risultato che insomma segna l'arrivo di una doppietta che è mancata per due decenni di fila. Pensate che era stata compiuta almeno una volta ogni decennio dagli anni 40 fino alla fine del Novecento, fino a prima che nascesse Tadej Pogacar, e poi era scomparsa nel nuovo millennio. E curiosamente arriva nella stessa edizione in cui Mark Cavendish stabilisce il record di tappe vinte di ogni tempo, oltretutto conclude la corsa come Lanterne Rouge, anche questa abbinata è un caso rarissimo, leggevo sul nostro gruppo Telegram che non succedeva dal 1989, era stato Mathieu Hermans l'ultimo. E insomma, io penso che questo Tour de France che abbiamo appena finito di vedere sia qualcosa di cui leggeremo nei libri di storia del ciclismo, nei libri di storia dello sport. E a me fa sempre un po' impressione assistere con i miei occhi alla storia che si sta compiendo, quindi è qualcosa di, non lo so, mi verrebbe voglia di abbracciarvi tutte e tutti per sottolineare la grandezza di quello che abbiamo visto e di quello che ci ha mostrato questo corridore straordinario. Quindi viva Pogacar, viva il ciclismo, perché oggi Pogacar è il ciclismo, è il portabandiera, è il bene del ciclismo. E l'abbiamo visto sulle strade. Oggi il Tour de France finisce a Nizza, risolleva anche un po' lo spirito dopo la tragedia di tre giorni fa del quartiere Moulin, dove è stata ammazzata una famiglia di sette persone in un incendio. Finisce con una crono che, insomma, non è una cosa particolarmente allegra, non fa molto festa, ma in realtà porta a Nizza una festa come non si vedeva da tempo. E il fatto che anche in Italia si siano fatti ascolti da record, vuoi per la bravura eccezionale, notevole, tanto di cappello per chi lo ha seguito, per la squadra Rai che ha seguito questo Tour de France, ma vuoi soprattutto per il traino di questi fenomeni in bicicletta, ribadisce che questo è stato un tour di attenzione, di partecipazione, di supporto popolare, è stato in un modo o nell'altro il tour dei tifosi. Di tifosi se ne sono occupati tanto quelli che hanno seguito questo Tour de France, perché quello che si è visto sulle strade, è stato visto sulle strade, io non c'ero, ero a casa tranne i primi giorni, è il fatto che ci sia un sacco di tifosi nuovi. Era una cosa, leggevo anche una dichiarazione di Gianetti che era molto stupito, e sono, le età sono molto più basse, anzi sono un sacco di bambini anche che sono alle corse a tifare. È una cosa di cui ha scritto qualche giorno fa Luke Herrings sull'Equipe, era il 15 luglio, e notava appunto come il pubblico del ciclismo stia ringiovanendo. I numeri dicono che la seconda fascia più presente alle corse, non chiedetemi con quali calcoli è stata fatta, è quella tra i 15 e i 34 anni. E la cosa interessante è che ringiovaniscono anche le pratiche. Sono diverse, sono pratiche nuove di tifosi, no? Si osserva come c'è un forte influsso della cultura ultras, per cui viene dalla partecipazione amorosa del calcio, no? Per cui megafoni, tamburi, fumogeni, cori, grandi gruppi che si muovono, a cui il ciclismo oltretutto offre quel materiale naturale per striscioni che è la strada su cui scrivere. È una cosa che si è vista bene negli ultimi anni con Pinot l'anno scorso, si è vista con Bardet quest'anno, si è vista ancora ieri, se forse la televisione non gli ha dato tanto spazio, ma c'era una curva per Champoussin nel suo paese natale che è Sospel, sul Turini, dove non a caso sventolavano le bandiere del Nizza Calcio, che tra l'altro ho scoperto essere sponsorizzato da uno stesso sponsor del ciclismo. C'era anche la famosa curva Pinot ieri, nonostante il loro beniamino non fosse più in gara, anche se lo abbiamo visto anche oggi a Nizza a godersi il Tour de France. Loro erano presenti e l'hanno dichiarato, c'era un'intervista da qualche parte. Quest'oggi dicevano: siamo presenti per far casino, per la gioia e per il pastis. Tre ragioni nobilissime. E insomma, ogni giorno anche si vedono queste orde di tifosi di Pogacar, tifosi di Vingegaard, tifosi sloveni e danesi, sì, ma non solo. Si parla spesso sui giornali anche di una vera e propria poghimania. E a me sembra che questa cosa sia un traino eccezionale per il ciclismo. Certo, se vogliamo guardare l'altro lato della medaglia, è un traino anche per gli Emirati Arabi o per la monarchia monegasca, come abbiamo visto oggi, non certo due esempi di gente con cui, insomma, sarebbe piacevole andare a mangiare la pizza, cioè magari mangiare la pizza sì perché pagano loro, ma insomma, figure che non andrebbero pubblicizzate, diciamo. Però, insomma, alla faccia anche dei tanti critici, questa cosa sta facendo del bene al ciclismo, sta riportando le persone ad amare il ciclismo. E mi piace come Poggi sia il primo a sostenere i suoi sostenitori, no? Scusate la ripetizione. L'abbiamo visto al Tour, ma l'abbiamo visto anche al Giro, è uno che ha anche voluto subito stroncare sul nascere i discorsi sui tifosi che disturbano, perché si sa che ci sono anche figure che però sono più che marginali, che spesso sono piene di alcol più che di amore, ma anche di entrambi, ma insomma sono figure che, a parte qualche gendarme che li maltratta in maniera un po' poco accettabile, per il resto si parla di uno su 1 milione. E non penso solo a Poggi, pensate a Girmay, la maglia verde di questo Tour de France, che adesso prova a passare su Rai Sport, probabilmente sarà in corso la sua premiazione in questo momento. Girmay che ha una capacità unica di attrarre tifosi nuovi, tifosi che non c'erano nel ciclismo prima. Girmay che è rappresentante di un paese, di un popolo, di un continente intero, se vogliamo, no? Dopo la sua prima vittoria a Torino aveva scritto sui social: lasciate che io apra la porta. Apre la porta sicuramente a nuove generazioni di corridori, a nuovi confini, ma anche a nuove generazioni e a nuove entità di tifosi. I suoi tifosi eritrei torinesi, che io avevo incontrato, ci avevo chiacchierato un po' quel pomeriggio dopo la sua prima vittoria di tappa, oggi si sono messi sulla strada e sono andati a Nizza. C'è una novità sul tifo ed è una novità che è veramente una boccata d'aria fresca per il ciclismo e dobbiamo ringraziare questi grandi campioni. C'era in uno di questi articoli un'intervista a Sébastien Louis, che è uno studioso dei movimenti ultra, e diceva che nel collettivo Ultras Pinot ci sono dei codici ultras, si può parlare di tifoseria attiva per il corridore e per la squadra, anche se non propriamente di ultras. E sono codici che si riprendono perché anche gli ultras sono sempre più popolari, soprattutto dopo il Covid. E in Francia, non è un caso che queste cose arrivino dalla Francia, in Francia sono tracimati anche nei movimenti sociali. L'abbiamo visto insomma, quante siano state le mobilitazioni di piazza in Francia anche negli ultimi mesi a ridosso delle elezioni e quanta sia stata anche una partecipazione di queste tifoserie popolari. Ecco, sarà interessante capire i motivi che hanno portato questi tifosi in strada. Non me ne occuperò io, ma spero di leggere degli studi sul tema. Perché sì, ci sono i campioni, c'è probabilmente anche la liberazione di quella zavorra che erano stati gli scandali doping, no? Questi sono giovani tifosi che sono cresciuti in un ciclismo in cui non si sono più obbligati a affezionarsi a un campione che il giorno dopo viene immolato sulla pubblica piazza, viene condannato, viene squalificato, magari scompare per 2 o 3 anni. E poi, appunto, ci sono questi campioni. C'è l'effetto Poggi, c'è l'effetto Vingegaard, c'è l'effetto Van der Poel, c'è l'effetto Van Aert, c'è l'effetto Evenepoel. Questi fenomeni, Pedersen, non so se un altro che porta grandi tifosi, Girmay, l'abbiamo detto. Insomma, forse è solo l'effetto di un tour riscopertosi non solo grande, ma anche bello, bello da vedere, bello da seguire. Fatto sta che in questo luglio 2024 ci troviamo a celebrare un campione enorme, un campione grande come il sole, uno che non nasce oggi, chiaramente, basta pensare al suo curriculum, ma che può durare anni. Può può continuare a vincere in questo modo per alcuni anni, se siamo fortunati, o forse magari durerà pochissimo perché i rivali sono vicini, e lo abbiamo visto anche in questo Tour de France, e verosimilmente con gli anni ne avrà sempre di più. Però io mi auguro che un Pogacar così resti in alto per il suo potere attrattivo, per quanto ci fa divertire, perché con lui il ciclismo va più in alto e non deve snaturarsi. Non è uno sport che si sta snaturando più di tanto, si sta certo adeguando ai tempi. Il ciclismo poi è forse lo sport che più cambia con il passare dei tempi, no? Però ecco, non sta perdendo la sua natura, anzi. Cioè, se pensiamo ai tre corridori che salgono sul podio oggi, si direbbe quasi un ciclismo che sta tornando ai suoi classici. E per questo mi auguro anche di vedere un Pogacar, perché oggi di Pogacar che parliamo, ma questi campioni, di rivederli presenti. Vorrei che Pogacar a questo punto, oggi dopo la vittoria, ha parlato di maglia iridata, ma con o senza maglia iridata vorrei vederlo tirare il fiato d'inverno e poi ripartire per le classiche e ripartire per il Giro, ritentare la doppietta un po' alla Indurain, no? Che lo faccia di nuovo tra un anno e che lo faccia non solo lui anche nei prossimi anni, che vada avanti così, perché insomma questi corridori e quelli che verranno, se ne verranno, ci stanno facendo un regalo, stanno riportando i tifosi sulle strade, stanno riportando il ciclismo nei cuori di tanti, e che questo tifo nuovo, folle d'amore, si allarghi sulle strade di tutto il mondo. Sono andato forse un po' lungo oggi, perdonatemi, però le zanzare non sono arrivate alla fine. L'esperimento di Extra Extra finisce qui. È stato un esperimento, per cui mi farà anche piacere sapere cosa ne pensate. Scrivetemelo nel gruppo Telegram, nei commenti, qui sotto, dove volete, insomma, sapete dove trovarmi. Io ringrazio voi che mi avete ascoltato, ringrazio chi è stato ospite qui di persona negli incontri fatti sulla strada nei primi giorni e poi con le interviste asincrone fatte su WhatsApp. Ringrazio soprattutto, più di tutti, Leonardo Piccione, senza il quale questa newsletter non l'avremmo fatta, e ci si risente chissà quando, sicuramente dopo queste vacanze, almeno per quanto mi riguarda. Ma seguite Bidon, seguite tutti gli altri, tanti altri, c'è chi va in vacanza molto meno di me, bravi loro o bravo io, non lo so, lascio a voi valutare questa cosa. Ci sono tante, tante persone che raccontano bene il ciclismo. Forse una delle fortune per cui anche questo amore sta risalendo è che viviamo in un'epoca anche di tante persone che fanno bene questo lavoro. Il ciclismo è uno sport che abbraccia sempre più soggetti, sempre più singolarità in giro per il mondo. Quindi, come disse il Dema in uno degli incontri di questo Extra Extra, godiamocela e adieu.